Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e benvenuti a questa puntata di Salva Danaio, speciale estate. Se tutti gli investitori grandi e piccoli agissero in modo perfettamente razionale, fossero sempre perfettamente informati, sui mercati finanziari sarebbe impossibile fare profitti o perdere, magari ci sarebbe anche una grande noia. Invece, come si sa, non è così, perché un investitore totalmente razionale, totalmente informato su tutto non esiste, e soprattutto quando si decide come investire il proprio risparmio, la razionalità non è tutto, anzi le attività nella gran parte dei casi prende il sopravvento, inducendo anche molte persone a commettere errori o almeno a non fare delle scelte coerenti con la propria propensione al risparmio o al rischio, spesso molto più limitata di quanto non si creda. Questo è in estrema sintesi quanto studia la finanza comportamentale, come si comportano gli attori del sistema finanziario quando decidono cosa comprare o vendere, come gestire il proprio denaro, come investire, su quali prodotti, su che mercati. Si dice che gli italiani siano tra i popoli più emotivi in fatto di finanza, anche come conseguenza della scarsa educazione finanziaria che abbiamo, tema che peraltro, soprattutto dopo la crisi finanziaria recente, è diventato il centro dell'interesse generale. Muovendo anche da tutte queste riflessioni è nato qualche tempo fa un laboratorio di economia sperimentale, frutto di un accordo fra Swiss and Global Asset Management Italia e la Fondazione Università Ca' Foscari. Noi di tutto questo parleremo questa mattina per capire che obiettivo ha questa iniziativa e quali sono i temi attuali discussi nell'ambito della finanza comportamentale. Allora, questa sinergia si avverrà del coordinamento del professor Paolo Legrenzi, che è ordinario di psicologia cognitiva all'Università di Venezia, che saluto e ringrazio per essere qui con noi a Salva Danaio. Buongiorno professor Legrenzi. Buongiorno. Uno dei massimi esperti riconosciuti, perlomeno nel nostro paese, ma anche a livello internazionale, in termini appunto sul tema della finanza comportamentale. Poi abbiamo Filippo Lascala, amministratore delegato Swiss and Global Asset Management. Benvenuto anche a lei. Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. Professor Legrenzi, quando parliamo di uomo economico, ovviamente circoscrivendo la nostra riflessione a quello che conosciamo del comportamento dell'italiano, si tende a dire che il risparmiatore italiano appunto tende ad essere molto impulsivo e di solito sopravvaluta le proprie conoscenze finanziarie. È davvero così? È davvero così. Questo è l'effetto del modo di funzionare della nostra testa in contesti che spesso da un lato sono ansiosi e dall'altro lato richiederebbero abilità mentali di cui noi naturalmente non siamo dotati. Certo, le possiamo imparare. Quanto costa l'ignoranza finanziaria? Beh, naturalmente complessivamente l'ignoranza finanziaria non costa nulla, perché quante più sciocchezze fa uno, quanto più vantaggio ne trae un altro. Quindi se noi vediamo il mercato in termini aggregati, al mercato in termini aggregati costa poco. Se invece guardiamo i singoli individui che fanno la sciocchezza di cui l'altro poi invece trae beneficio, costa moltissimo. Quali sono le lacune finanziarie più riconosciute per quello che riguarda l'investitore italiano medio? L'investitore italiano medio ha questo insieme di lacune che possono interagire. Un orizzonte temporale spesso troppo corto e soprattutto guidato dal passato. Faccio presente che normalmente questa è una cosa sensata. Si sceglie un ristorante sulla base di come ci siamo trovati nelle occasioni precedenti, o un albergo. Invece, scegliere e essere influenzati nelle scelte dei titoli, nel tenerli o nel venderli, da quello che è successo nel nostro passato è un gravissimo errore. L'altra lacuna, in fondo queste tre lacune sono le tre più importanti. L'altra lacuna molto importante è l'agire in preda ed emozioni, soprattutto di tipo negativo, per cui abbinando al fatto che l'orizzonte temporale è corto si fanno degli errori. In terzo luogo, le premesse di questi due errori sono eccessiva, come posso dire, sicurezza nelle proprie capacità di agire in questo mondo. in questo campo specifico. Spesso, questo è spesso un errore che si fa in altri settori. Filippo, la Scala, l'ho già presentato prima, amministratore delegato di Swiss and Global Asset Management. Il professor Legrenzi ci ha illustrato quali sono le caratteristiche dell'uomo economico italiano, dell'investitore medio, e naturalmente partendo anche dall'analisi di questo, voi siete partiti con la vostra iniziativa, avete dato vita a questo laboratorio di economia sperimentale. Intanto ci racconti un po' come è nata questa idea, che cosa intendete fare, che tipo di studi intendete portare avanti, e poi esamineremo anche, come dire, l'obiettivo concreto dell'iniziativa, se è un modo per studiare le nuove esigenze di risparmio che le famiglie hanno e quindi, non lo so, come casa anche di investimento, inventarvi nuovi prodotti da mettere a disposizione della platea degli investitori. Beh, direi innanzitutto che questa iniziativa nasce ed è una dimostrazione implicita del fatto che anche noi, quando prendiamo decisioni di questo genere, siamo per nulla uomini economici. Nel senso che l'anno scorso abbiamo conosciuto, in occasione di un nostro convegno, il professor Carraro, che è rettore di Ca' Foscari, nonché sopraffino economista ambientale, era venuto a parlare di temi che ci interessavano molto e ci siamo innamorati. Quindi la cosa è nata innanzitutto perché dal punto di vista, come dire, dei sentimenti, dal punto di vista delle affinità elettive, ci siamo trovati. Quindi mi sta dicendo che anche in finanza può scoppiare il colpo di fulmine. E come, ecco. Come, no? Nel caso poi di questa nostra partnership con Ca' Foscari, oltre a essere stato un colpo di fulmine, questo rapporto si è rafforzato perché abbiamo trovato veramente degli interlocutori con i quali è stato facilissimo immaginare tutto. Il professor Carraro poi ci ha presentato Paolo, che è uno straordinario personaggio che naturalmente conoscevamo perché avevamo letto molto delle sue opere, e quindi, siccome avevamo voglia di come dire, impegnarci per fini che sono naturalmente legati alla nostra attività, ma in realtà anche perché avevamo il desiderio, come dire, trovare dei ritorni dall'attività che facevamo, che non dovevano essere squisitamente economici, diciamo, passata una certa età, poi le soddisfazioni le traiamo non solo dai risultati economici che si raggiungono, ma dalle cose che magari si possono costruire e che si possono raccontare anche ai propri figli, diciamo così. Ci siamo trovati su questo progetto di supportare il laboratorio di economia sperimentale, perché peraltro era un tema che noi, come dire, affrontavamo da tanto tempo, quello della finanza comportamentale. Paolo è forse, direi sicuramente, il principale esponente di questa attività, ecco, di ricerca. Prima, tra l'altro, di raccontarmi che cosa farete concretamente con questo laboratorio, mi aggancio proprio all'ultima considerazione che ha fatto, perché il professor Legrenzi me lo raccontava prima a microfoni spenti: da moltissimi anni studia queste tematiche, ma in realtà l'industria finanziaria non è mai stata particolarmente affascinata invece dall'analisi dei modelli comportamentali, appunto, dell'uomo come investitore, come uomo economico. Professor Legrenzi, qualcosa sta cambiando? Sì, qualcosa sta cambiando, perché naturalmente lei può vedere, come accennavo prima, l'industria finanziaria come un aggregato di molte persone, e spesso gli economisti e la finanza vedono le scelte come risultato di milioni di scelte individuali, è quello che succede quando si commentano i mercati e così via. E invece sia gli psicologi e gli economisti che lavorano nel laboratorio, sia una però azienda che fabbrica dei prodotti e che poi li colloca, perché i clienti li prende uno ad uno. Cos'è la somiglianza tra il nostro modo di lavorare? La somiglianza profonda del nostro modo di lavorare è che noi trattiamo le persone una per una, con i limiti che hanno, e anche non solo i limiti, con le caratteristiche, diciamo, che hanno gli individui. Questo ci differenzia entrambi, quelli del nostro dialogo, sia Filippo che me, con l'approccio classico che vede l'economia e la finanza in termini aggregati, e molto spesso li tratta in maniera tale che possano rientrare in modelli matematici. Questo è stato il grande cambiamento dagli anni 50 ad oggi. Una volta non era così. Perché se lei legge, non so, Keynes, il classico libro di Keynes alla fine degli anni 30, questo è un libro che tratta gli investitori individuali, c'è un capitolo intero su questo tema. Ecco, ma l'industria, secondo lei, adesso sta registrando questo cambiamento di maggiore interesse verso il comportamento, appunto, dell'individuo, perché comunque in qualche maniera deve riparare anche ai disastri provocati dalla crisi finanziaria recente? Non era meglio farlo in tempi più sereni? Come spesso succede, ecco, questo è un fenomeno, come sono brava, legato allo specchietto retrovisore, come spesso succede nella vita, è stata una serie di guai crescenti nel corso, diciamo, dell'ultimo decennio dopo lo scoppio della grande bolla legata alle nuove tecnologie all'inizio del 2000, sono state questi due fattori congiunti: una certa sfiducia verso gli economisti standard dovuti a fenomeni che hanno toccato milioni di risparmiatori, di investitori che non erano stati previsti, e poi B, anche la necessità di studiare quello che succede ai risparmiatori individuali, che sono molto aumentati e che aumenteranno molto, perché in realtà diciamo il ritrarsi dello stato sociale, quindi pensioni, temi oggi molto caldi, pensioni e sanità, farà sì che ognuno dovrà pensarci per conto suo, e quindi l'individuo anche in questo prospettiva ritorna protagonista di scelte. Quindi lo Stato sempre meno assistenzialista svilupperà, esatto, questa coscienza anglosassone nell'uomo economico, in sostanza. Allora Filippo Lascala, ritorniamo a lei. Il colpo di fulmine con il rettore dell'Università Ca' Foscari e l'idea appunto di portare avanti l'esperimento del laboratorio di economia sperimentale. Chi saranno le cavie? Le cavie possono essere diverse, poi magari in dettaglio entriamo con Paolo che racconta po' come il laboratorio funziona. Ci racconterà quali saranno i suoi topolini di laboratorio. Diciamo che più che le cavie, noi quello che cerchiamo di fare con il laboratorio è di portare dei temi concreti, delle problematiche che osserviamo o che magari il laboratorio ci aiuta ad osservare, proprio per poter meglio comprendere quelle che sono le dinamiche che guidano le scelte di investimento del singolo individuo, da una parte, e dall'altra evidentemente reagire, qualche volta addirittura anticipare certi bisogni, offrendo delle soluzioni che dal nostro punto di vista sposino le esigenze reali più profonde, quelle magari non percepite, quelle meno consapevoli del risparmiatore, con le esigenze anche di carattere poi oggettivo, quelle di remunerare il capitale, quello di costruire una pensione, eccetera eccetera. Al di là del ruolo che lei esercita nell'ambito dell'azienda della quale stiamo parlando, che è appunto Swiss Global Asset Management, personalmente quali sono i temi della finanza comportamentale che la fascino? Probabilmente avrà anche, come dire, una distorsione di natura professionale, quindi sarà portata ad analizzare con interesse certe tematiche anche per il lavoro che fa, però insomma gli aspetti che le suscitano maggiore curiosità. Beh, ce n'è uno che mi ha sempre colpito in buona sostanza e che riguarda l'asimmetria della percezione, uso termini che non sono tecnici, l'asimmetria della percezione dei rischi e dei ritorni da parte degli investitori. Chi come me ha fatto questo mestiere partendo tra virgolette dal basso, quindi iniziando a fare la consulenza anche alla clientela privata nell'ambito di banche, quindi del classico rapporto di sportello bancario, poi magari crescendo e avendo a che fare con risparmiatori che vengono chiamati più sofisticati, ma semplicemente perché hanno portafogli più grandi. In realtà la sofisticazione e la dimensione del portafoglio non ha una diretta attinenza. Però facendo questo percorso mi sono molto spesso trovato di fronte a soggetti che in fase di costruzione del portafoglio dimostravano, esplicitavano una un'attenzione piuttosto che un appetito di rischio, che poi in realtà nei frangenti più difficili è stato completamente smentito. Così come una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che piccole perdite causano dei traumi molto più significativi rispetto a guadagni che possono essere più importanti, ma magari in contesti di un certo tipo sono inferiori a una borsa che esplode. Quindi questa asimmetria di percezione è un fenomeno che mi ha sempre lasciato un po' così. Io poi non è che sono il massimo della coerenza e del rigore, però mi sono sempre detto, il giorno che faccio una scelta e consapevolmente assumo un profilo di rischio di un certo tipo e faccio degli investimenti di un certo tipo, pensando a un orizzonte temporale lungo, evidentemente se dopo poco vedo che il portafoglio non va bene, non mi dovrò preoccupare, proprio perché le premesse erano altre. Invece questo non è mai così, non è mai così, assolutamente. Accadere. Professor Legrenzi, un momento molto interessante, almeno io lo immagino, per la finanza comportamentale è stato quello a cavallo fra la fine del del secolo scorso, praticamente il 2000, quando con lo scoppio della bolla della New Economy si sono scoperti tanti errori da parte di molti risparmiatori, quando manifestarono quel forte istinto gregario che è l'altro movimento appunto importante che la finanza comportamentale studia, cioè in sostanza se si compra l'azione Fastweb perché in un giorno fa più 50%, è chiaro che tutti poi correranno dietro a questo titolo. La crisi finanziaria ha fatto scomparire l'istinto gregario, secondo lei, oppure c'è ancora? No, l'istinto gregario c'è ancora. Naturalmente questi grandi eventi di questo decennio, interessantissimo dal punto di vista del nostro mestiere, al di là del fatto che ci sono queste due tendenze di fondo, il ritirarsi dello Stato e quindi l'importanza delle scelte individuali e l'evoluzione tale per cui i mercati sono sempre più correlati tra di loro, queste sono due tendenze di fondo, ma il decennio è stato molto interessante perché ha fatto dei, come potrei chiamarli, quelli che gli economisti chiamano esperimenti naturali. Ci sono verificate situazioni eccezionali. Facciamo l'esempio di quella a cui ha accennato lei, lo scoppio della bolla tecnologica. Al di là dei titoli della bolla tecnologica che venivano venduti carissimi con rapporti prezzi utili anche sopra 100, improponibili, anche i titoli normali della borsa americana, di cui abbiamo sequenze storiche di due secoli, venivano venduti 4 volte più cari la media di 180 anni, quindi con rapporto prezzi utili che era 4, quindi carissimi. Normalmente in tutti gli altri merci, quando ci sono le svendite, le persone si precipitano e non esistono delle antisvendite in cui le persone accorrono in quanto i beni costano molto più cari. Problema della finanza comportamentale. Come mai invece l'oggetto finanziario è diverso dal vestito, da altri tipi di beni in cui noi cerchiamo di comprarli nei momenti in cui valgono poco nelle svendite? Questo è un grande tema che è legato all'effetto gregario, alla non percezione su un arco temporale lungo di questi fenomeni, al fatto che piccole perdite comportano grossissime uscite dai mercati mentre le persone sono, diciamo, presentando questa simmetria perdite e guadagni, non riescono a fare una valutazione corretta, e altri fattori di questo tipo. Allora, la capacità di sopportare le perdite nel breve periodo appunto non è molto alta da parte dell'italiano. Potendo scegliere, io sto così rileggendo anche degli appunti che avevo scritto in occasione di altre puntate di Salvadanaio dedicate a questo argomento. Potendo scegliere, l'italiano vende un titolo che guadagna e tiene in portafoglio quello in perdita perché non vuole venderlo fino a che questo ha il segno meno e vorrebbe chiudere tutte le operazioni con un margine di guadagno anche minimo. E anche questa, professor Legrenzi, è un'altra considerazione interessante, ma chi ha questo approccio allora in borsa non ci si dovrebbe avventurare per niente, eppure ci prova. Sì, questo probabilmente è il meccanismo più devastante sui singoli portafogli ed è quello che spiega come mai un consulente, anche molto modesto, in realtà fa molto bene a un portafoglio se si frappone tra il proprietario del portafoglio e il portafoglio stesso. Le persone sanno gestire molto male i loro portafogli proprio principalmente per questo meccanismo che lei ha descritto, cioè, ed è un meccanismo paradossale se lei ci pensa, non è che occorre fare un esperimento in laboratorio, solo pensare a due persone, uno ha comprato l'Unicredito che oggi vale 1,50 euro, uno l'ha comprato a 3 euro e l'altro l'ha comprato a 1 euro, perché c'è stato un periodo che valeva 1 euro. Sì. Anche sotto è finita per la sì, esatto, poniamo che oggi valga 2 euro, allora io e Filippo siamo due piccoli risparmiatori che abbiamo, non so, 10.000 Unicredit, 20.000 quel che l'è, io che l'ho preso a 1 euro, se oggi devo disfare il mio portafoglio per un certo motivo lo vendo anche volentieri 1,50 euro, invece Filippo che ha comprato 3 euro oggi se lo tiene stretto. Eh certo. Allora evidentemente questa decisione non è razionale, perché il futuro del titolo Unicredit, che alcuni ritengono sottovalutato, non lo so, non sarà indipendente da quello che facciamo Filippo ed io, sia che tutti e due lo teniamo, sia che uno lo vende, quello che succede, l'altro lo tiene, perché siamo una goccia in un mare enorme. Ciononostante noi ragioniamo dal punto di vista della goccia e non del mare. Invece come dovremmo ragionare? Se pensiamo entrambi che è sottovalutato, ce lo teniamo. Se entrambi invece pensiamo che andrà un aereo, dovremmo vendere. La cosa ideale è che due risparmiatori piccoli non parlino tra di loro in modo tale che uno non cominci ad invidiare l'altro, poi un altro bel tema. Comunque abbiamo introdotto anche il tema invece del timing, del momento in cui gli investimenti si fanno. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, speciale estate, seconda parte. Oggi abbiamo due ospiti in studio con noi, il professor Paolo Legrenzi, ordinario di psicologia cognitiva all'Università Ca' Foscari di Venezia, e Filippo La Scala, amministratore delegato di Swiss and Global Asset Management. Perché li abbiamo invitati? Perché all'Università Ca' Foscari si sta allestendo un laboratorio di economia sperimentale che studierà il comportamento degli investitori nel nostro paese. Non abbiamo ancora svelato le modalità con cui questo studio verrà effettuato e soprattutto anche che aspettative di risultato ci sono. E allora ritorniamo su questo argomento. Dottore La Scala, appunto amministratore delegato Swiss and Global Asset Management, ci racconti un po' intanto che cosa vi aspettate di scoprire, anche analizzando appunto il comportamento dell'investitore. Molto concretamente i temi che cerchiamo di analizzare con il supporto del laboratorio di economia sperimentale coordinato da Paolo Legrenzi sono temi che riguardano, come dire, il nostro quotidiano nelle relazioni sia con gli investitori finali, ma soprattutto nel nostro caso, visto che noi utilizziamo dei distributori, quindi altri intermediari finanziari, di comprendere quali sono le dinamiche che loro percepiscono, che loro stessi, come dire, alle quali loro stessi sono soggetti, per poter trasmettere, comunicare in maniera più efficiente i contenuti dei nostri prodotti da una parte, ma anche per poter recepire quelle che sono le esigenze e poter dare delle risposte quindi adeguate. Certo. Allora, professor Legrenzi, adesso ci racconterà come condurrà l'attività di questo laboratorio, però prima le volevo fare un'altra domanda relativamente allo studio dei vari aspetti della finanza comportamentale. Ce n'è qualcuno che questa disciplina non ha affrontato ancora in maniera specifica, approfondita? Questa disciplina, che ha più o meno 30 anni di vita, ha inizialmente studiato molto di più ciò che tutti gli uomini del mondo hanno in comune. Cioè, se lei studia in laboratorio un gas, non è che il gas si comporti in maniera diversa se lo studia a Hong Kong, a New York e così via. Il gas si espande in funzione del volume, la temperatura, in base alla legge PV uguale RT, e quindi il gas come oggetto che porta in laboratorio per studiarne il comportamento è indipendente dalle culture, dai posti, dagli scenari in cui lo studia. La finanza comportamentale all'inizio, essendo disciplina neonata, ha studiato di più le cose, diciamo per così dire, simili ai gas, cioè comportamenti delle persone che non hanno grande impatto sulle variabili culturali, sulle variabili storiche di un certo paese. Negli ultimi tempi invece si incomincia ad approfondire le differenze tra i vari paesi, stante certe caratteristiche di fondo della mente umana che sono il prodotto dell'evoluzione di questa specie che è l'uomo da decine di migliaia di anni. Cioè, che differenza c'è tra un risparmiatore di un paese che ha fatto la rivoluzione industriale un secolo fa e di uno che l'ha fatto mezzo secolo fa? Evidentemente l'esperienza di tre generazioni di gestione di risparmio è diversa da quella del paese dove c'è una sola generazione. Questo secondo aspetto è un aspetto che si inizia a studiare solo adesso. Solo adesso. Allora, una trentina d'anni ha questa disciplina, lei la studia dall'inizio, non voglio essere maleducata e denunciare ovviamente le questioni di natura anagrafica, professore, però mi chiedo, in questi 30 anni quali sono i fenomeni economici legati al comportamento individuale o di massa che l'hanno colpita di più? Naturalmente colpisce moltissimo se uno osserva i comportamenti anche aggregati degli investitori, quello a cui prima accennava Filippo, l'enorme asimmetria tra il dispiacere di una perdita e la soddisfazione di una vincita. Questo colpisce sempre moltissimo, perché è questo che penalizza un portafoglio, per esempio, azionario, che in realtà sarebbe molto efficiente se lei non facesse nulla. Allora colpisce una persona che l'agire per una cosa che ci preme, che ci emoziona, che ci sta a cuore, in realtà comporta un danno. Normalmente nella vita non è così. Cioè il vantaggio dell'inazione rispetto all'azione è una cosa che colpisce molto, soprattutto nei contesti contemporanei. L'altra cosa che colpisce molto è la pervicacia di alcuni di questi meccanismi che probabilmente sono stati martellati dentro la testa da milioni di anni e che, si badi bene, in molti contesti sono efficienti. Se noi fossimo guidati nella vita quotidiana e fossimo stati guidati da decine di generazioni, da migliaia, decine di migliaia di anni, da un comportamento verso il rischio, da una totale simmetria sui guadagni e le perdite, quelli cioè che sono oggi considerati elementi di razionalità, probabilmente non saremmo qua a parlarci. Infatti. Allora, Filippo La Scala, volevo tornare a lei sulle motivazioni che vi hanno indotto ad attivarvi con questo laboratorio di economia sperimentale, quindi l'idea di studiare il comportamento, cercare di capire bene quali sono le esigenze di investimento delle famiglie, dei risparmiatori, dei piccoli investitori. Il tema del comportamento, dell'educazione finanziaria, della finanza comportamentale, soprattutto da quando questa crisi recente esplosa in maniera così dirompente, ormai ce la stiamo trascinando da oltre 4 anni, è diventato il tema che interessa un po' tutti. L'industria finanziaria ne sta facendo il suo grande cavallo di battaglia, ma io ho notato che l'industria finanziaria tende ad attribuire molta responsabilità anche dei disastri che qualche volta la finanza fa alle scelte non consapevoli che il singolo individuo fa. L'industria finanziaria mi sembra che ancora non abbia fatto molta autocritica. Io non so se lei possa dirmi di essere d'accordo, ma le chiedo appunto una considerazione su questo. Parafrasando una celebre intervista a un giocatore di calcio, sono completamente d'accordo al 50% con il mister. Nella misura in cui questa valutazione è una valutazione che ha diversi elementi tra di loro in contraddizione. Cioè, è vero che l'industria finanziaria dimostra in molti casi di essere particolarmente arretrata. Io faccio un esempio che è banale, che c'entra con il nostro tema, anche se non è direttamente legato ad esso. Se si vede quali sono gli strumenti di comunicazione, anche solo pubblicitaria, da parte dell'industria finanziaria, ci si rende conto che forse decenni, comunque molti anni indietro rispetto a quella del largo consumo, dove certi comportamenti, quelli appunto che noi andiamo a studiare con Paolo, sono conosciuti da molto tempo, e quindi le leve vengono applicate correttamente per poter indurre dei comportamenti attivi, passivi, insomma di un certo tipo nei confronti dei consumatori. Quindi questo è anche vero che in 30 secondi come funziona un detersivo lo si riesce a fare, come funziona un'obbligazione bancaria strutturata, sì. È un po' più complesso. È anche vero, come ricorda Paolo, di questo potrebbe raccontarmi moltissimo, che ad esempio fare la pubblicità su un prodotto cosmetico vuol dire avere dall'altra parte un interlocutore che ha una lunga esperienza dei cosmetici, una donna ma anche adesso gli uomini, perché li prova sulla propria pelle e quindi ha un'esperienza diversa rispetto a un prodotto come quello finanziario, che è molto più complicato o che non fa parte dell'esperienza quotidiana, diciamo, della larga parte delle persone. Quindi da una parte è vero che l'industria deve fare passi di un certo tipo. Noi non solo vogliamo studiare i comportamenti dei risparmiatori, ma vogliamo anche imparare da questo a comunicare in una maniera che sia facilmente percepibile. Noi abbiamo recentemente, ad esempio, aperto un nostro profilo su Facebook e un altro su Twitter, perché sinteticamente la logica che vogliamo adottare è quella per la quale i nostri investitori debbono trovare le informazioni sui nostri prodotti e più in generale sul nostro modo di agire, perché noi dobbiamo essere una casa di vetro, teniamo noi il risparmio, che ha un'importanza basilare, delle persone in mano, e quindi insomma dobbiamo dare dimostrazione di massima trasparenza. Devono poter utilizzare i canali che più gli aggradano, quelli con i quali sono più confidenti. Quindi questa è una prima logica. D'altra parte però, insomma, la finanza deve andare al passo con i tempi, non solamente in termini di sofisticazione dei prodotti, ma anche in termini di utilizzo delle tecnologie, assolutamente, con i mezzi che ci sono. D'altra parte però, e questa è la contraddizione che volevo far emergere, ci sono dei comportamenti che sono dei comportamenti che, dietro la logica della tutela massima del risparmiatore, di fatto lo deresponsabilizzano. Faccio un esempio molto banale. In questo periodo, con la crisi della Grecia, si parla di banche, molte banche europee, anche molto grandi, che hanno in portafoglio molti titoli greci e che quindi potrebbero essere teoricamente soggette a un dissesto finanziario. Ora, molti risparmiatori reagiscono in momenti di volatilità, come adesso, di incertezza, lasciando i soldi sul conto corrente. E magari su conti correnti di banche che offrono dei tassi di interesse molto elevati. Ma che senza sono avere... molto esposti ai titoli potrebbero essere, non lo so, io questo non lo voglio dire, non lo so sinceramente, ma diciamo che senza comunque tenere in considerazione che c'è un rischio di controparte, c'è un rischio che la banca non sia in grado poi di restituirti questo denaro. Ecco che allora qualche volta, come dire, evitare di tutelare i risparmiatori e metterli di fronte, tra virgolette, al fatto compiuto, cioè al fatto che qualcuno una perditina ogni tanto se la deve portare a casa perché non ha valutato in maniera razionale, ma Paolo su questo può spiegare, insomma, certe situazioni, è diseducato, diciamo, a ragionare. Guardi che sono assolutamente convinta che il dissesto di Lehman Brothers sia stato provocato proprio da questa volontà di impartire una lezione forte a tutto il sistema, ma questo forse è un altro argomento. Professor Legrenzi, ci dice come ha intenzione di lavorare nell'ambito di questo laboratorio di economia sperimentale? Allora, collegandomi a quanto dicevo prima, per noi è molto interessante il rapporto con Swiss and Global, perché se avessimo soltanto studi, diciamo, in cui le cavie sono questi soggetti universali in cui studiamo caratteristiche comuni a tutta la specie umana, noi potremmo utilizzare per esempio gli studenti dell'università, che sono state le cavie più utilizzate nei primi 30 anni di economia sperimentale e di finanza comportamentale. A noi però questo rapporto per noi è molto importante dal punto di vista dei nostri studi, perché vogliamo vedere specifiche persone in una certa cultura come si muovono in certi contesti. E allora in questo siamo diversi da un laboratorio di scienze naturali classiche, di fisica, di chimica, perché noi vogliamo studiare cosa succede in certi contesti a persone che hanno avuto, tra virgolette, una certa educazione finanziaria. Quindi quale sarà il vostro campione di riferimento? Il nostro campione, ci sono tre grandi tipi di campioni, quello che a cui accennavo prima, in cui si studiano variabili di fondo, poi c'è il grande campione, diciamo, costituito da come si presentano i prodotti finanziari costruiti dalle fabbriche, come si presenta al mercato femminile un mascara, per fare un esempio, per fare un'analogia. E in terzo luogo è molto interessante il rapporto interpersonale nella distribuzione di questi prodotti. Il tema della consulenza, quindi. Il tema della consulenza fatta da una vasta platea di consulenti dentro le banche, di promotori e così via, che sono il veicolo poi per la scelta di queste persone. Questo è un tema, questi tre aspetti. Salva Danaio. Ultima parte di questa puntata di Salva Danaio speciale estate, dedicata questa trasmissione appunto ai temi della finanza comportamentale. Ci siamo avventurati nella conoscenza dell'attività di un laboratorio di economia sperimentale che sta prendendo corpo all'Università Ca' Foscari di Venezia, la cui attività sarà coordinata dal professor Paolo Legrenzi, uno dei massimi esperti di finanza comportamentale e docente di psicologia cognitiva all'Università di Venezia. Questo laboratorio è frutto di un accordo tra la Fondazione Università Ca' Foscari e la Swiss and Global Asset Management. È con noi quest'oggi Italia l'amministratore delegato Filippo Lascara. Professor Legrenzi, il problema principale per i risparmiatori italiani, uno dei problemi appunto dei risparmiatori italiani è anche questo: molti dichiarano di non dedicare mai tempo a valutare come stanno andando i propri investimenti, e a volte addirittura quando firmano un contratto per sottoscrivere un prodotto di risparmio non chiedono informazioni per non fare brutta figura con il proprio consulente. Intanto, sul tema del tempo, secondo lei esiste un tempo giusto da dedicare al proprio risparmio? Diciamo un po' di più, stante che l'individuo medio in Italia sta 26 ore alla televisione alla settimana, leggermente di più di quello che dedica attualmente. C'è anche da dire poi che, essendo questa una scelta rilevante, a differenza di altre scelte rilevanti come scelte mediche e così via, il rapporto tra il consulente, che sarebbe il medico, e il paziente, che sarebbe il risparmiatore, è molto più delicato, perché il consulente deve responsabilizzare sulle scelte che fa il risparmiatore, anche perché deve farle in funzione di quello che lui è. Non è come il corpo umano, che è indipendente dalle emozioni, decisioni della persona che in realtà deve fare una certa operazione. Oddio, sul suo corpo. Ci sono anche le malattie psicosomatiche, quindi non è proprio indipendente anche la salute dall'emotività. Sì, vero, anche in questo caso esattamente una malattia psicosomatica è simile a quello che succede tra un consulente e un paziente, cioè nel senso che deve prendere coscienza di questa cosa. Quindi è un rapporto molto complicato, e se posso correggere leggermente un'affermazione fatta prima, sì, non è complicato perché il prodotto finanziario è molto complicato, perché avendo per anni studiato le scelte delle donne nei cosmetici, di per sé un mascara è un prodotto molto più complicato di un prodotto finanziario, perché si può collocare come minimo su 6 dimensioni se lei lo posiziona nello spazio. Il problema è che una donna ha una grande educazione cosmetica che le è stata fatta da molte fonti, che qui è rilevante raccontare. Mentre, così come viene fatta oggi l'educazione finanziaria, diciamo la verità, è una materia noiosa. E questa materia noiosa quindi non viene praticata, e le persone fanno in pochissimo tempo scelte molto rilevanti per la loro vita, non solo finanziaria, perché ormai la nostra vita, quando smettiamo di lavorare, se ci dividiamo, un matrimonio che oggi viene fatto ha più probabilità di dividersi che non di perdurare. Quindi rispetto a come va il portafoglio gestito, poniamo, da Swiss and Global, è molto più rilevante quello che succede nella sua vita. Le persone si trovano povere semplicemente perché dividono un nucleo familiare. Allora, gli aspetti economici non sono soltanto gli aspetti economici della vita di un portafoglio, sono gli aspetti economici che sono intrecciati alla vita di una persona. Come accennavo prima, molte di queste scelte prima venivano delegate allo Stato e a altri enti. Oggi la prossima generazione, in parte quella che adesso inizia a lavorare, queste scelte dovrà farsele individualmente. Per tanti motivi che qui non possiamo raccontare, le persone non sono attrezzate a questo tipo di scelta così rilevante. Sarà un tema sempre più attuale, tra l'altro, che speriamo porterà anche in qualche maniera le istituzioni preposte a farlo a impegnarsi sempre di più nel voler portare queste tematiche anche nella scuola, ma qui apriremo un altro dibattito, però insomma speriamo anche che ci si sensibilizzi sempre di più su questo terreno. Allora, il laboratorio di economia sperimentale Filippo La Scala chissà quante strade di riflessione vi aprirà. Tra l'altro, avrà una scadenza, oppure insomma l'attività del laboratorio si apre e poi, in relazione a come andranno i risultati, farete altro? Che tipo di risultati appunto vi aspettate, soprattutto quando farete il primo check-up? Il laboratorio, bisogna, per onore di verità, esisteva già, nel senso che era già stato allestito all'interno dell'università, e sì, quindi noi adesso lo supportiamo e speriamo, con il nostro supporto, di farlo crescere ulteriormente. Chiaramente accordi di questo genere sono accordi che vengono contrattualizzati, ogni contratto ha una scadenza, ma in cuor nostro, per le intese che abbiamo raggiunto, che sono quelle più importanti, sono quelle extracontrattuali, in realtà abbiamo una logica di lunghissimo periodo. Noi vorremmo unire il nostro nome al laboratorio di economia sperimentale, perché avremo e cerchiamo dei ritorni, che sono dei ritorni, al di là della battuta, che però era anche seria, del matrimonio e dell'incontro felice con Paolo e con il professor Carraro, in realtà abbiamo delle aspettative di ritorni molto concreti che ci possono aiutare nelle nostre attività, così come il laboratorio trae naturalmente un beneficio dal supporto che diamo noi, ma tutti i matrimoni d'amore hanno anche un coté, diciamo, di interesse, no? Poi magari noi abbiamo avuto la fortuna di eleggere il domicilio coniugale sul Canal Grande, che non è male. Detto questo, quindi, la nostra logica è quella di legarci al laboratorio, di farlo crescere, di far crescere la nostra cultura in quest'area, di avere poi dei ritorni che ci permettano delle applicazioni concrete, ma che permettano anche di spingere la ricerca accademica. Noi finanziamo il laboratorio non solo su ricerche che ci interessano direttamente, ma anche sulla ricerca di base, che poi è fondamentale per fare la ricerca. Quindi ci auguriamo di poter nel tempo rinnovare. Fino a quando avremo risorse per poterlo fare, lo faremo volentierissimo. Allora, insomma, in questa trasmissione abbiamo la rappresentanza accademica e naturalmente quella dell'industria finanziaria. Lei qui rappresenta ovviamente il consulente finanziario. A proposito di consulenza, prima il professor Legrenzi faceva il parallelo del rapporto fra l'individuo, il proprio medico, e l'individuo, appunto, il proprio consulente finanziario. Se andiamo dal nostro medico, noi siamo in grado esattamente di rappresentargli tutti i nostri malanni, tutti i nostri malesseri, e non abbiamo timore a parlare di alcunché. Davanti al consulente finanziario invece, perché si manifesta sempre tutta una serie di pudori, dottor La Scala, che ci impediscono di essere estremamente chiari con anche le nostre richieste, le nostre necessità in qualità di investitori nei confronti del consulente? Ma io posso fare un ragionamento che non è scientifico, diciamo, per ciò che percepisco io. Credo che sia legato innanzitutto all'esperienza di ciascuno di noi, insomma, la relazione col medico è una relazione che va indietro nella storia, nell'esperienza delle persone, anche da più generazioni, e quindi ha indotto, come dire, comportamenti che si sono stratificati nel tempo e che poi vengono appresi dai genitori, da chi ci ha preceduto, nel momento in cui ci si relaziona con il medico. Non è poi sempre vero che le persone sono in grado di trasferire al medico i loro sintomi, quindi anche questo è un tema che bisogna considerare. Poi magari ci sono dei pudori legati a tutta una serie di questioni, no? In fondo, così ragionando, se io arrivo e sono raffreddato, non ho nessuna colpa del raffreddore che ho preso. Se vado dal consulente finanziario gli devo raccontare che ho fatto un investimento nelle celebri miniere di marmo nero, chissà in quale paese, e dove mi hanno fatto firmare delle carte che erano robaccia, insomma, e poi mi sono ritrovato senza soldi, evidentemente ho qualche pudore in più, perché devo ammettere di aver fatto delle sciocchezze. Credo che sia anche questo il tema. Credo che peraltro la professione della consulenza finanziaria debba molto crescere, non perché non abbia già oggi dei rappresentanti che, come dire, hanno qualità notevoli, è perché proprio si deve affermare il concetto della consulenza finanziaria. Se si pensa che al giorno d'oggi si paga volentieri il medico, anzi quello che si paga di più spesso si pensa che sia anche più bravo, mentre invece si ha la tendenza a non voler pagare il consulente finanziario, che poi in qualche altra maniera viene pagato, già ci si rende conto che ci si trova di fronte a un approccio completamente diverso. Insomma. Nelle scelte di investimento molti si affidano naturalmente anche all'informazione finanziaria. Professore Legrenzi, le chiedo naturalmente, mettendomi direttamente alla berlina, un giudizio sulla tipologia di informazione finanziaria che oggi abbiamo a disposizione. Che cosa ne pensa? Insomma, sono dei canali corretti questi da utilizzare per i risparmiatori? Beh, dobbiamo distinguere almeno due canali. L'informazione finanziaria fatta dai media in Italia ha un livello qualitativo, direi, molto buono. Anch'essa risente leggermente di quello che è il più grosso difetto della, diciamo, comunicazione finanziaria istituzionale. Io presiederei il comitato di ABI, cioè delle banche, in cui sono rappresentati anche il mondo però dell'accademia e il mondo dei consumatori. E questo comitato ha iniziato a valutare tutte le comunicazioni che le banche fanno ai loro clienti. Questo tipo di comunicazioni, proprio per l'esigenza un po' illuministica di informare benissimo il cliente, sono fatti da formulari lunghissimi, da presentazioni prodotte lunghissime, che andrebbero bene per un mondo di esperti. Infatti sono costruite da esperti. E questi esperti presuppongono di avere degli interlocutori con la loro stessa preparazione. Questo è un difetto gravissimo, perché questo tipo di comunicazione non è tarata per il pubblico che oggi ne deve fruire, e gli esempi sono moltissimi. È un altro aspetto del tema della simmetria informativa che abbiamo toccato all'inizio. Purtroppo non riusciamo ad approfondire questi temi, potremmo andare avanti ancora per ore, ma io faccio una cosa adesso: vi faccio promettere che non appena avete i primi risultati appunto dell'attività del laboratorio di economia sperimentale in questo presidio rafforzato con la collaborazione di Swiss and Global Asset Management Italia, ci leverete appunto a raccontare, quindi scopriremo da questi topolini di laboratorio del professor Legrenzi quale tipo di così atteggiamento emerge. Grazie per essere stati con noi, a Paolo Legrenzi, buona giornata professore, grazie ancora. Grazie a voi. E a Filippo Lascala, buon lavoro. Grazie naturalmente. A voi, a presto. Salvadanaio termina qua, noi ci risentiamo domani, buona giornata a tutti.